stato come te, da. Vediamo un po'. Vediamo se conosci questa qua. Aspetta. Oh, yeah. sto entrando, prendo, insomma, faccio bene ascolti. D'accordo, ogni tanto, così. Ma non è sempre, a volte la guardo, la macchina va Puglia. Capita lì. Vedi, con l'altro baracchino acceso, no? Che mi sto ascoltando. Cioè, sono importante, ma non la suono, la sento benissimo. Ma è... sembra, ascoltandomela io, sembra un amplificatore. Per pochi che per molti, lo sai. Beh, è un gioco. Perché cucinare per regola mai bene. Invece ci si regola di più quando c'è cucina per tanti, capito? Non so. Ah, se vediamo un po', già qualcosa, già, cioè, siamo che cose poco di latte e io per fatto, non è che sia questo un problema. Vediamo un po'. Questa magia di latte ne. Dai, sia questo grande mangione io, per fa. Se mi busta un po' a mangiare, sì, già mangio, però non più di tanto. Qua, ti è mai capitato di farti un pochettino di pasta da solo? O non ti è mai capitato o che ti esce troppo poco, o che ti esce troppo di più, o semplicemente che sbagli qualche cosa, il sale o cosa del genere? Certo, perché no, certo. Allora io di solito quando la cucino per me è un letto, appena poco più di un letto nel cucino. Siccome c'avevo un peso che è un po' imballato, e molte volte è capitato più di un piatto e mezzo, quasi due piatti, dai, di pasta. Di cui uno me lo mangio io, uno va a finire la mondezza. Ma io mamma non ne mangio e va a finire la mondezza. Perché è difficile, capito? È difficile cucinare per se stessi solo, o poche persone, due o tre, più, è molto più difficile. Infatti, questa vita si va a provare, c'è pa. Sì, di nuovo io. Se giocavi per il gioco. No, è cosa, Luca. E se ti idea se te ne un milione di euro, che ce la questa la faccia di andare. Yeah, ma se saremo lì posso suonare tra pari a gli discuti. Stappa, mi alza per incominciare la corrida. Ah, adesso è. Stappa, fra un po' fa per incominciare, oggi ho già visto la cosa. Adesso mi ha riso da ridi. Ci vado in questo programma. Oh, c'è gente bravissima, ma c'è gente, per carità. Come c'è le forme, la parte io la sono con la sinistra, no? La parte di sotto manca, poi si chiama spalla mancante, e costa 900 euro amplificata. Niente, 900 euro di chitarra all'anima. Ma i santi, 950 euro più 200, no, 300 euro di amplificatore, fa un conto, 1250 euro, 2 milioni e mezzo per voi. Consideriamo le vecchie, il vecchio cuneo. Oh, vabbè, che chi usa quella roba la usa professionale, cioè roba professionale a livelli alti, non è che uno si compareggia una chitarra a Gucci, basta una lacca, butta. Lo so, purtroppo quelli che sono nei gruppi sassaresi mica vanno chitarre di 50 euro, 60 euro, che mi cominciano a essere 1.200, 1.500, 2.000 euro di chitarra. Pappa, eccolo lì, è vero. Beh, uno che suona deve avere qualcosa di più professionale, perché non una chitarra magari che costa 100 euro. Ora, mi è capitato, ho fatto una volta nella mia vita, Sassari Porto Torres, questo qua è 10 anni, 12, non mi ricordo, forse di più anche. E siamo arrivati a Porto Torres, che erano, non mi ricordo, le 2:30, e siamo andati in questo circolo lì, non mi ricordo che via è. E ne è arrivato Luciano, quello che cantava, mi sembra, nel trovato d'occhio. Gli hanno aperto la macchina, la Fiat Uno, gli hanno rubato una chitarra che lui ne teneva da tanti anni, l'aveva pagata la bellezza di 5 milioni. Certo. E hanno fatto un furto cattivo, anche perché 5 milioni sono un bellino. Capito. Allora io dico questo, no? Mi sa che cosa Gucci, perché io non la capisco. E chi vi siete voi? E chi vi siete voi da pure? Avete la chitarra dentro la macchina, non dicono che li spaccano di vetro, il vetro. Lo spaccano anche con una pietra lì, ci va da mille un pezzo. Vabbè, lo spaccano, la mia chitarra, ciao! E chi si è visto si è visto, me. Infatti quelle cose non sono mai da mettere in vista, mai. E chi vi se ne pone? Magari trovi di quelli lì che sono senza di nato, questa cosa, di un colpo, e te le piglia la chitarra, si innanda. Casino, è un casino. Bisogna stare attenti. Si può dipingere lì. Guarda, ha detto, guarda, io vi pago, non so quanto sta parlando, mi sono un milione, vorrei parlare, 1.500.000. Trovatemi la chitarra, trovatemi la chitarra, la chitarra per me è tutto. Era una signora chitarra. C'è 5 milioni con la chitarra, l'ho pagata. La tua? Oh, Luciano, quello che suonava dentro la terroce, chi suonava, aspetta, cantava, te sei canzone, aspetta. Ricordo, ma insomma questa volta l'avrei sentito. Che scappa, ebbe, anche se avrà veloce ce ne sono stati molti, molte canzoni. Non mi dici il nome, non lo so. La canzone non mi viene adesso, aspetta, fammi ricordare. Non mi viene adesso. Sui piedi non mi viene. Ma ormai è veloce, senza mancare, deve essere preciso, senza sbagliare. Che devi per forza, tu non sei qualità allenata, se fossi stato allenato riesci a farlo. Lo so, faccio un allenamento. Quella troppo elettrica. Certo, la sua. bella, a me piace molto il suono. Aspetta un attimino. Non ti piace? No, no, proprio sempre, ma tu vuoi, però no. ti vai a lasciare una cosa del genere? Non se la fa con la chitarra. C'erano tutte le moto d'epoca, le macchine d'epoca, c'era una moto del 32, ne ho fatto le fotografie, una Guzzi del 32. Che gli ha detto Franco? L'abbiamo vista insieme con Franco. Eia. K. E gli ha detto, vale 10.000 euro mi sembra, 10.000, 12.000. 30.000 gli ha detto quello lì. 30.000 euro. Ha detto che varrà sui 30.000 euro perché con tutti i pezzi che gli ha messo nuovi, lo sai cosa ci aveva? Ci aveva le valvole esterne al motore, praticamente quello che succede dentro il motore delle macchine, questo qui succedeva all'esterno. Cos'era un moto Guzzi? Sì, si vedevano le valvole che si muovevano, che andavano avanti e indietro. Può essere rossa col cerino dietro? Può essere con i cerchi a raggi? Le Guzzi erano quasi tutte rosse, sì, rossa c'è, rossa, c'è anche il sedile dietro, però quelle nuove, tenute, guarda, sembrano uscendo dalla fabbrica, tutte lucide, le ruote nuove, i cerchi nuovi, tutto il motore lucidissimo, tenuta proprio con maniacalità. Qui sono quegli amatori, qua se trovi l'amatore la vendi e se la compra. Ciao, compra tranquillamente, fai per dire che ci sono 30.000, 28.000, ma anche 27, ma la vendi, perché se la vendi, Poi se trovi la mattona che proprio se la costruisci, se la fa, se la tiene conto, bene, sempre lucida, tutte le cose, non fa la prende, ma neanche se ne dai 50.000. Vabbè, comunque ci sono sempre gli amatori già. Proviamo un attimo, vediamo un po' cosa dice la vecchia per mangiare, aspettiamo subito, riprendi tu Pierpa. Cosa che va le marce come quella della macchina, Pierpa? Oh, non l'ho mai vista, no? Allora, il volano tipo, è presente la macchina della mortadella di quelle antiche, quelle che sono a mano, il volano ce l'aveva così. Poi aveva le valvole esterne al motore che si muovevano avanti e indietro, tutto esternamente. In più aveva l'acceleratore di quelli a mano, quindi quando devi cambiare la marcia dovevi decelerare con l'acceleratore, ce l'ha fatto vedere, e poi inserire la marcia, e poi riaccelerare di nuovo, sempre con l'acceleratore a mano. Non è acceleratore normale come le moto, una levetta. Quella col volano così, ma non avevo visto che c'erano le valvole esterne, però dove c'è il volano grande, sì, quella tra l'altro mi sembra che mettevano il motore in una maniera particolare. No, l'ho messa con la pedivella, però la particolarità di questo moto qua è appunto il fatto che tu quando devi cambiare ci devi mollare quasi tutto il volo del manubrio, perché le marce così, c'è una leva a fianco e alle marce prima, seconda, terza, come la macchina, però tutte dritte, capito? Sì, ho capito com'è. Quelli sono pezzi antichi, pezzi che se quello dice avrà dato un valore, ma non sono sicuro che non la venda, però, perché quelli ci tengono in una maniera incredibile. Sì, infatti sono, a meno che poi a vecchiaia non se ne facciano più nulla, la danno. Ma ha detto questo qui, quale museo dell'aeronautica? Devono venire loro a vedere il nostro di museo, ha detto, questo motociclista, che era anziano. Ha detto, di questi pezzi non se ne trovano in tutta l'Italia, se ti fidi. Nuove così, come la moto mia, tutta rifatta a nuovo, tutta rigenerata il motore. E la mia è in grado di fare 130 orari, ha detto. Guarda che veramente siamo un po' noi che molte volte ci liberiamo delle cose che non sappiamo neanche un valore. Adesso è successo una decina d'anni fa, questo qua, immaginiamoci, no, forse 10 anni, no, o meno. Ma c'era questo mio amico che aveva, ti ricordi quei Kawasaki 400 anni 70? Aveva uno di quelle, questo qua l'ha vista e gli ha detto se la vendeva, lui ha detto no, non la vendono, lascio stare così, ogni tanto la tolgo pure, cosa. C'era un peccato, un po' rovinata le cromature, questo messo a posto e cosa. Li puoi immaginare, c'erano ancora le lire, no? Di quanto stiamo parlando, adesso circa 10 anni fa comunque. Ho detto guarda, ti do 3 milioni se me la dai. E qua quando si dio 3 milioni, ho preso gliela data subito. Beh, magari adesso per vale 3 volte di più. Sì, già me lo ricordo il Kawasaki 400. Solitamente li facevano verdi, quei 400 lì. Verdi, gialli c'erano. No, questo era blu metallizzato, era. Quelli anni 70 col panottondo, no? Che allora non avevano tutte le carene, le cose così. Quelle che c'aveva il 4 a 1 ci aveva. Sì, ma la cosa migliore che avevano allora era il sedile molto comodo. Adesso li fanno quelle da cosa da strada, le fanno tutte con sedile piccolo piccolo e non ci sta nemmeno tu. Beh, infatti adesso sono dinamiche, sono. Adesso hanno queste carenature così, questa sagoma che siccome è posato da rito, ma si un po' da rito pare che sia andata la montagna. E poi si bosa sopra un sedile fasullo, non è una sella quella, ma bensì è dove si mettono i documenti, non ve lo gudi nuda sotto la sella, invece prima c'è il posto. E insomma non è che era tanto, comunque era grande la sella. Già, io ancora lì c'era questo mio amico, conosco, l'ho pure usato, l'ho pure guidata. Ed era un demonio, un demonio era. Cazzo, ho detto, come che anche io ho giocato 3 milioni, cazzo, e subito, e quando andiamo a fare il passaggio, prima di rispetti. Guarda, il 400 fuori ho portato il Laver da 1000, che allora era forse quella che camminava di più. Già ce n'erano già, ma il Kawasaki già andava forte, allora erano tutti gatti. Io me lo ricordo che erano tutti gatti con Kawasaki. Sì, è vero. Il Kawasaki era la moto più usata. Allora, praticamente il 900 era il massimo. Infatti me lo ricordo che tutti ci davano questi. Poi non so se hai detto anche tu che colori erano, colori un pochettino che davano anche nell'ultimo. Sì, già me lo ricordo. Poi c'era uno che si chiamava Tarzan di Sorso, insieme a Giumpina salivano da Rizzi e via Rittere, si da via Roma impennando, ci avevano le marmitte a spillo, c'erano la marmitta 3 in 1 a spillo però, e tu che tu facevi il casino con questi marmitti. Era proibito, me il 4 a 1 era proibito, Vito Giappone di fare una contravenzione. Perché realmente quel Kawasaki usciva con quattro sfughi, due da una parte e due dall'altra. Beh, perché la compressione era tutta da una parte, capito? Come la compressione tutto in uno c'ha più spinta. Infatti facevano un rumore, che era una cosa bestiale. Guarda, oggi, anzi ieri, mi è passato un T-Max a fianco, lo stavo portando al semaforo, questo qui parte al semaforo, un tuono ce l'è presente, c'aveva una marmitta di quelle le Vinci però svuotate, un tuono, guarda qua, un rumore allucinante ha fatto, ha aperto qua, sembrava una moto da corsa. Che motore era questa qua? Il T-Max della Yamaha. E si mette in plastica. Plastica? È uno scooterone il T-Max, non lo conosci. Sì, abbiamo messo in plastica, dici. Qui sono su moto. Ma ora ci mettino che dopo le che li chiamava a già discorsi. Cazzo, diceva. E allora posso fare ghiaccio, un po' di armiliato. Una canna ghiaccio. Quale è il... aspetta. È sbagliato. È lui. Qual è la befana preferita di un padre, di un gatto? Non so, non mi ricordo. E beh, c'è la latte, gin tonic, vino, mi sembra. E whisky. E ci mette una... prima il latte. E poi la contenta, dove la di più... non sono sicuro se è il latte. No, e poi dice, la cena gin tonic. Caffè su, ma non lo scherzo. Dai che fa. Chi è che lo so bene? È già andato, ma è Italia 1. Italia 1. E tu che la chiami in moto, ben fai, risponi con le moto lì. Ah? Risponi, non ti ho capito. Tu hai detto che non chiami moto di tutti i rumi, chiami plastica, non so cosa. E quali sono le moto che tu chiami moto? Me l'hai detto tu poco fa, no? Vespoli? No. Ma quella da corsa? Honda GBR, quelle lì. Quelle lì sono un'altra tipologia di moto, ma sono moto anche quelle che abbiamo noi. Oltretutto, ai vecchi tempi, Vesponi, la velocità che fanno quelle moto, manco se lo sognavano di farle. Che fa Honda? Da quale? Le moto alla strada. Cosa? Ma ci sta già. Che fa Honda? Ma? Eglia. Non mi senti? Ehi, dimmi. Aspetta, Honda? Ma che cazzo si chiama? Si chiama Honda? Consumano meno delle altre, perché con le altre sta sempre cambiando di marcia e consumi molto di più. Sono una moto per gente intelligente che vuole consumare meno benzina per pagare meno soldi. Va bene, io non sono intelligente, però mi piacciono le moto con le marce. Sarò almeno intelligente e voglio essere meno intelligente, però è uguale, perché in radio non mi va di dire quella parola, non mi va di dire quella parola, le moto per chi sono, ma mi hai capito senz'altro, quelli con la potente F di una volta, amico. Di Campa. Quella di Tenio. Beh, la patente F c'era gli handicappati, io non mi ritengo handicappato, per cui ce l'ho lo stesso, con la moto lì mi va bene, cammina a 170 km orari, per cui mi va troppo bene. Io non so cosa intendi che tu sei un handicappato. Ho le matte ciclisti che davano in prima, ma niente che non puoi guidare. E adesso le hanno messo in circolazione, ma non chiamatemele moto, per cortesia, dai. Cosa si può dire che è una moto, cazzo, la moto acceleratore, un pezzo di plastica, il suo si ti cudono un coi fugato di frantumare, me ne cudono a me, ma lo sai l'hanno che ha giubato io a una macchina con la Vespa, chi si aveva avuto che si è pezzo di plastica, sai che è stato morto, cazzo, ma tu non hai manco l'idea di un coi che la circuta, lui l'hanno che la giubato. Per paro, non si è documentato, perché le moto di adesso c'hanno un telaio di moto da corsa, capito? Le moto che usiamo noi hanno telaio di moto da corsa, quelle che superano i 150 cilindrate, 200, che sono già 400, 500, 600, quelle lì hanno tutto il telaio da corsa, e specialmente il 650 della marca della moto mia ha tutto alleggerito da corsa, praticamente praticamente tu sei su una moto d'acqua, se c'è le ruote grandi, tutto quanto. Ma guarda, io non sono documentato, però leggo sui giornali ogni giorno che cosa succede. Sono quello lì, mi basta. Sarò poco documentato, però cosa vuoi già? A me. E questo sarà pure un mio parere personale, magari ci sono altre 50 milioni di persone che la pensano diversamente da me. Io la penso così, nessuno me lo toglie. Sono pezzi di plastica molto pericolosi e io non... se fosse il ministero non avrei messo neanche una di quelle moto in giro. Quelle di qua, giusto a 40 all'ora, quei pezzi di plastica andrebbero bene. Io non comprerei mai una moto così, sinceramente, troppo pericolosa. Poi, non lo so, ognuno la pensa come vuole. Comunque io ti posso garantire una cosa, che molte autoscuole, se tu interpelli, per esempio, istruttori seri veramente, ti dicono chiaro e tondo che arrivano di lì gente che non sa neanche della frizione. A che cosa simile? Questo te lo posso garantire perché ho avuto a che fare negli ultimi periodi molto su queste cose e tutti si lamentavano di questo fatto qua, che arrivano lì e non sanno che cosa è la frizione, cosa è il cambio, non sanno proprio niente. Ma non è caso mio, perché ho parlato tutti i tipi di moto, quindi non è il mio caso. Ne ho portato grosse, ho portato la Vespa, ho portato il Caballero, ho portato tante moto. Non mie, di amici, però le ho portate. Ma l'hai inviato la P50, però. Cosa? Ma l'hai inviato la P50. Tu, stai mettendo un camion, cosa vuoi entrare? Non è... Io non sto dicendo la categoria nostra, io sto dicendo i tempi futuri che avranno, che non... è difficile da spiegare, è inutile. Oh Luca, con la P50 hai avuto anche un brutto incidente, non me lo ricordate. Guarda io, allora, fammi ricordare bene, forse l'unica macchina che non ho guidato mai è il 126, lo sai. Se dovete sì, ce l'ho guidato, c'era mio cognato, ero fermo allo stop, questo qui si è girato a guardare una ragazza, si è sbattuta a me e mi ha fatto capottare. Cazzo, ma non l'ho vista butta, mi si è affigata la frizione nella mano. Ho una carrozzella. E allora, siccome il ragazzo che faceva il giro con i dolci, no, perché era il giorno prima di. Era il giorno prima di Pasqua, mi pare. Sì, il giorno prima di Pasqua. E c'era un ragazzo che faceva il giro con i dolci, si è sentito male, se n'è andato a casa. E mio cognato mi ha detto già, prendi la moto, già carica, fa il giro dei negozi e poi ritorna qua e prende il furgone. Sono andato, ho preso la moto, ho fatto il giro, no, ho trovato questa ricometta, e beh già, ma tardi sei andando, cazzo, manco dito mi va via. Ma cosa ti dico, 2 minuti. Mi sono fermato allo stop, passa questa macchina, stavo guardando una ragazza che era facciata la finestra, cazzo, boom, mi si è cutennato, mi ha fatto gapputtare. E questo qui mi ha telefonato anche il giorno di Pasqua, di scusarlo, questo, quell'altro, era mortificato, come stavo, come non stavo, cazzo, c'erano tutti ingessati. Sembrano che stiano guidando la loro non vedranno manco la loro macchina così, perché fanno delle cose assurde. E ho notato, sono tutti schizzati questi ragazzi che adesso camminano con le macchine, si chiudono la scala piccata, tutti quanti correndo, tutti schizzati guidando, con quella guida nervosa. Sai che altri voi, per esempio, no? Cioè la fissazione dipende sempre da chi guida e chi guida. Io la verità ho il piede un po' pesante anche sul motocarro, come altre volte andai io, poi mi vantavo, ma sono in pochi. E infatti me lo dicono tutti, però ho anche molta prudenza. Figurati che se non avrei prudenza, premettendo che io in quanti anni non ho mai avuto incidente, per colpa mia mi hanno sempre tamponato. E guarda, se io non starei attento, non starei con gli occhi aperti, non sai quante volte al giorno io tremberei, no, tu non hai un'idea. Prima che mi fate, sempre a me, quando ti vedo con un motocarro, no? Pure quando sei a 2 metri di distanza, ti inizi a dare stop, lo mattessi. Però sai perché? Perché secondo il loro cervello, no, quello è un metro letto, ce la faccio. E invece gli sei addosso, io gli sono addosso, guarda, in pochi metri sono addosso. E molte volte, se non sarei pronto, c'è sempre il patatrac. Ma sai che l'antivoce lì, non ne ho un'idea. Io lo so perché guido anch'io, lo so. Peppa, io vado a mangiare, dai, poi mi faccio sentire. Ci sentiamo dopo. Andò bene, andò bene. Mangia, mangia. Mandica, guardi, sì. E poi lo mandico io. Peppa, io gli ho mangiato. Mentre la due è nara, a visizi. E chi è messa, no? Che sa vedere? E ti sei attende, Peppa? No, che so, me. Che c'è Luca? E adesso qua, come l'hanno che di camera? Ma mai meglio lo sai sa che di camera? Allora, c'è una bella idea. Me non mangia troppo baroccia, Remi. Non so mai sa che c'è la bella. Milan 1, Palermo 1. Quasi quasi adesso me la guardo sul digitale. Ha segnato prima al Palermo, bresciano, al nono minuto, poi al 24esimo Ambrosini. Vai. Hola. Hola. Preferisco le spianate, mamma mia, buona lì di sopra. scappa. Già le mangio lo stesso, sono buone. Però preferisco più il panino. No, no, ma io lo cicatte. Cicatte, pane lenteglia. È buono lo stesso. Luca, non l'hai mai fatta la pizza con la spinatina? No. Non sai come? No. Metti un pochettino di sugo sopra la spinata, no? Un filettino d'olio, la mozzarella, un pochettino di sale e la mozzarella, la mozzarella oppure delle sottilette sopra, la metti in forno, un paio di, a forno caldo, ma poco però se non si secca, la metti in forno e la butti a mare. No, no, no, la verità, no, ho fatto sì, la serata gli ho messo un po' di olio sopra, d'oliva e un po' di sale, messa in forno ma poca roba e poi l'è fatta, buona vita, eh. Se ti capita a fare la pizza, metti un pochettino di sugo, fai il cucchiaio di sugo, la spalmi bene, no? Un pochettino di sale, un filettino di olio, della mozzarella, delle sottilette, insomma, no? E poi la fai la pizza proprio, pochi minuti in forno, proprio poco, e lo vuoi te la mangi, fai una pizza. Praticamente devi sciogliere la mozzarella, così. E tanto di sciogliere la mozzarella, e se c'hai anche qua viene ancora più buono, se c'hai un pizzico di origano. Io non ho mai provato, ma non capita, glielo dico a mamma. Ah, ho preso la farina, volevo fare la pizza, mamma la facevo io, solo che poi non l'ho mai fatto. Adesso vediamo. Cadicati, se la lampada buia, e dico la pronta, già pronta, poi ci vuole l'acqua minerale, così diventa prima, e in giro di 20 minuti è pronta, ed è buona, cioè, te l'abbiamo fatto a casa di Teresa, comunque. L'acqua minerale frizzante ci deve mettere. Ma l'acqua minerale frizzante? Già la conosco, già. È scritto pure. E quello è il sacchettino, così è. Iaia. Gava gava e gava gava. Un attimino, ritorno subito. Ci sei? Aspetta che mi sto guardando questo che mi camera. Già, fai e pulire, te l'ha chiesa lì. Cava cava. di stanco del capo. Non ho sentito un altro più basso, l'ho sentito. Chi è che vuole entrare avanti? Non lo so. Questa è 9:20, va. Questa è un'altra bassona. L'hai sentito? Cosa tu? L'hai sentito con l'H? Cavagare e cavagare. Non so chi sia. E ante Pierpaolo non c'è. Cappa che c'è. Pippallo! Che ci me? E chi te? E c'è tale in giro, io. No, sempre qua, Cava. Cos'è in sciopero? In sciopero. Sciopero. Magari ti avevo dovuto fare cose. Cosa tu? Ti avevo dovuto fare cose tue. Cava. Ehi. Tu ogni tanto ci vuole. Mi senti bene, sì. Già va bene. State sbaglio, la voce di uno che c'ha sonno, ga. Negativo. E voi bene mi ascoltate, sì. Caffa, io benissimo. Già va bene. Cava. Cava. Vipi. Ehi. No, oggi stavo provando un microfono, però mi piaceva. Mi piace più questo. Che microfono è? Questo è un microfono da palmo, dai. L'altro è un microfono da tavolo, però non mi piaceva. Mi sono ascoltato in cuffia e è successo il contrario. Questo è più piena come modulazione. Quello lì è si disperdeva troppo, capito? Cioè, con la voce più nasina. Capito, l'ho sentito io poco fa. Non lo so se tu hai sentito, forse sì, forse Pierpaolo mi ha sentito. No, ti ho sentito anch'io. E perché ti va bene quello che hai? Questo è un Talma F5. No, tu, questo è un microfono da palmo. Capito, l'altro è un microfono da palmo, da tavolo, questo è da palmo. In teoria qua la riuscirei molto meglio di questo, perché l'altro è un signor microfono. Però questo c'è di più ascoltandoli, non lo so. Scusa un attimo, Daniel, mica ti devi ascoltare tutti, ti voglio sentire gli altri. Guarda, stai uscendo malissimo, ma male. Cioè tutto quanto, pari non muoversi un bari. No, non so lui, mi sono ascoltato, abbiamo fatto anche altre prove e niente. Voi avete ascoltato bene, un'altra gente ha detto che andava bene questo. Vabbè, contento, io ti sentivo meglio con l'altro microfono, con 60. Un abisso, via. Cioè, un abisso. Poi, se gli altri hanno detto che va bene con questo, vai meglio con questo, tieni questo, se vuoi ti dica. Boh, non lo so lui. Stiamo ascoltati in cuffia, non sono il solo che l'ho detto. Perché stiamo ascoltati tutti in cuffia, con tutte le voci diverse possibili e immaginare. E questo andava meglio lui, ma non ti dica, strano, ma vero. A me stai arrivando con uno schifo, poi no, sono sbagliato. Ma no, non è male, cioè va bene, no, non è uno schifo, non è una modulazione bruttissima, però va bene, è accettabile, da parte mia, eh. E cosa vuol dire? Guarda, esce meglio con l'Inter. Ci mangia che c'ha apparecchio che si trattendava, se non mangia. Che apparecchio è che c'è? So che apparecchio è, non mi interessa che apparecchio è. Però l'Inter che se lo mangia. Sia di potenza, di... Ma con questa è diciamo che se ne è più alto, mi Daniel. Però come radio è pessima. Poi non so, io gli altri sono tutti bene, tutti, dal primo all'ultimo. No, che a te, no, ma vero che a te ti ascolti male. Sarà. Non lo so, Luca, allora ne provo un altro. in questi giorni, provo un altro e vediamo già se c'è differenza. Non controllo, no, devo essere sincero, no? E scopponevo a dirti che stai scendendo bene e poi ti conosci male, no? Per quale motivo? Assolutamente. Se ti conosci bene, esci bene, stop. Se ti conosci male, esci male. Cosa me ne entra in tasca? Non me ne entra niente in tasca. Iaia, Lulu. Adesso già provo con l'altro. Con 60 e vediamo un po' cosa succede. Come lo senti tu, Saturo? Come lo senti? Sono negativo. Ma anche io mi allora, se te ti sento bene. Cosa vuoi che ti dica? Claudio stasera è entrato, lo sentivo benissimo. Claudio lo sai che usa apparecchi grossi, dai, quelli che usa lui. Quando entra Teresa con il suo, la sento bene a Franco lo stesso. Cosa vuoi ti dica tu? Non so. Ti ripeto, non è che sia tutta questa grossa modulazione, però riesco a sentirlo, dai. Guarda, li ho ascoltati tutti e due dalla macchina, sia questo microfono che l'altro microfono. E ti dico che molta differenza non l'ho notata. Pensavo ci fosse molta più differenza. Non come te la mia, cosa vuol dire? Contento tu. Oh, può essere anche la mia voce, Milu. Boh. Non lo so, però io non mi sono piaciuto. Cosa vuol dire? Io non lo so, guarda. Gli altri li sento bene, li sento male. Chiusa, molto chiusa come modulazione, non è chiara, non è limpida. È molto chiusa come radio. Hai provato a toccare il califero, a vedere se riesci a girarlo un po' di più, a fare qualcosa? Dobbiamo toccare? Il califero, a girarlo un po'. Non cambia niente, quello funziona solo in banda e basta. È FM. Sette la vita. Io devo utilizzare. Ma guarda questo, Luca, com'è? Guarda, Daniele, dai, giro il clarifer, vai. Ma non succede nulla col clarifer, Lu. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti devo attenuare. Ci tanto non ti sento un po' chiaro, ma a RP che ne ha aperto era meglio l'altro, 60. Non lo faccio, perché se è freddo deve anche scaldare. Il calcer per riuscire a sentirli bene, se no è un casino. Ehi, vale, Dani, vuole aperto un po', ecco perché c'è così, vuole aperto. Vale, chiuso, non so, aperto l'ho aperto. Ehi, è aperto, è fatto tutto. Se non l'abbiamo attaccato, già hai sentito anche tu come stavo uscendo. Non so, Dani, no. Io su quell'apparecchino non è che ci metta la bocca perché non so neanche dove mettere le mani. Perciò mi sto zitto. Quello che ti devo dire quello che ti devo dire te l'ho detto. Secondo me ci meglio con 60, poi. Non lo so. Ma sì pure che c'è il mio apparecchio che no, non so. E agli altri li sento tutti bene. Prendi a Pierpaolo che c'è la voce grossa e poi non lo sento bene. Non lo so, Danone, Actimel. Vabbè che ancora non sale, qua è un bel freddo, Luca. Proviamo quando scalda. Ehi, passaggio un attimo, vai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, prova il radio, cambia. Vai di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova il radio. Ti devo attenuare per sentirti più chiaro, lo sai. Dove, Lucaria? Non lo saccio. Nell'altro microfono, quello a tavolo, sembrava come se la voce si disperdesse. Capito? Non era compatta, come piace a me. Con questo ne sono più compatta. Però le fanno il torcio a vedere. Cosa, Lu? Le approcci. Deve essere tolto. Tolto, vai. Eia. Vai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Adesso è più chiara. Tu, è fredda, boh, non lo so, se deve scaldare, non è al massimo ancora la modulazione. Ma c'è un problema al processore con la radio. Guarda, adesso l'ho inserito. Adesso è disinserito. Mi sento più chiaro attaccato. Attaccato? Attaccato, senza il processore. E vabbè, comprime di più il processore. Siamo i diritti, sicuramente stava parlando male il processore, cosa ne so Daniel? Non lo so, ti sento chiaro. Aspetta, guardiamo. La LC, la vedi. Tu ancora non sta salendo, Va. Adesso com'è sto salendo? Neanche 15 watt. Ma che la contatto è già? No, è la roba è troppo. Vabbè, cosa hai preso? Parecchio, microfono, ormai è cavetto. Cava. Manuale? Anche. Io vabbè. E io faccio qualcosa che non fa, però da niente. Io l'ho sentito K con il microfono normale, ma cazzo Billy. Pensavo che il tuo non. Perlomeno da me non ti sento bene. Non ti sento bene da niente. Poi non lo so. Poi c'è qualcuno che ti sente bene, entra e lo dice. Però non ti sento bene. Sì, c'è gente che. Che ha detto, per dire, trovando il 60, che era migliore la modulazione MB più 5, quando stava parlando Teresa. Vabbè, c'erano due timbriche diverse, Daniel. Però se tu attacchi l'Intec, ti sento molto, molto meglio. Cioè, non c'è paragone. Lo so, Lu, lo so. Non so il perché mi sentivo nasino con l'altro microfono. Questo non mi sento nasino. Adesso proviamo un altro microfono a vedere. Che se non mi sentite quel microfono la mia voce, neanche lo prendo io il 60. Ehi, Mario, come fatto una schiaccia la regolazione? Ma sta dietro al turno, riserva lì troppo, ti sistema tutto. Già lo risolveremo piano piano. Dava. E vabbè, dipende dalla timbrica della voce, e chi lo sa. Non so cosa dirti Daniel, non so che dirti. Fai tu, è roba tua, non sto dicendo niente. Io ripeto, non lo conosco, se lo so usare, perché non è che sia difficile da usare. Però non ti ascolto male. Aspetta, ascolto, non so se sei senza processore o stai parlando piano. No, non c'è il processore, adesso c'è. Sento malissimo, il tuo volume non ti ha strappato, sì. Aspetta, prova a passare il micchini. Guarda adesso. 1, 2, 3, 4 e 5. Non è cambiato niente. Sembra niente quello, no? È così, Lu, guarda un po'. Adesso è a metà, com'è? È così, diciamo, non strappa, però ci è abbassata un bel po' la modulazione. Lo so, è la metà. Guarda, guarda come adesso. Ma con la potenza come si, com'è il livello dei fatti? È bassa ancora, Lu, è bassa, è freddo. È appena. È anche a 15 c'è ancora. Ma fai un po' bugiotto. Infatti sto aspettando a scaldare a vedere come mi senti. Allora va. Fatti due passaggi in banda, ti sputi, ma poi i passaggi in banda, vabbè, c'è come scalda, è una bellezza. Ehi vabbè, fallo scaldare al naturale. No, fai bene a tu. Troppo. Vabbè, dunque, secondo me dovrebbe spingere di più di radio anche, di più di come... dovrebbe essere leggermente più chiara anche. Aspetta che metto le gambe con le cuffie a sentirmi, avevo già sentito. A che punto è migliore l'Alan 48 Plus che quello lì, Ma io la verità non ti sento strappando, la verità è, ti dico, però non è tutta questa grossa modulazione. Hola. 345. Ti ho cambiato il microfono. Sempre lui, Antu. Già si vede. Cava, cava e cava, cava. Perché ancora qua, piccole mutazioni, un vinnello. Fuga. Vai, pari due. Vabbè, ancora no, non è alta di temperatura, no. Ma stai usando tu l'MB più 5 nel, in quel baracchino? Cosa tu? L'MB più 5 stai usando? No, è sempre lo stesso microfono, perché? Oh, dico, quel microfono che stai parlando adesso, che microfono è? Un microfono palmare. Sono scappa. Beh, non puoi provare qualche altro microfono. No, per questo sono solamente due le... da provare, capito? Questo o l'altro che stavo usando prima. C'è attacchi diversi. Ma si può usare in quel baracchino lì? Guarda, quello che spinge di più è il 60. Capito? Questo è l'originale. Scappa. Boh, ci vorrebbe un microfono giusto lì sicuramente. Ma dai, che la gava? Mi stai iniziando a scaldare adesso. Picchetta, ma vivo un'ora, ma va a volare. Oh, Antu. Perché ci mette così tanto a scaldare? Sono già, questi sentono da tutta la potenza, capito? Salgono piano piano. C'è così scarichi i condensatori. Oh, se fa male la sorte a me. Ah, questo è un casino da spiegare. Un casino. Cava, cava. Luca, chi usa Luca? No. Chi è? Che è avanti? No, lo saccio. Non stai uscendo di radio, eh? Che cosa vuoi? Sei giù grande. E chi lo sa? Sai, qualcuno non sta uscendo di radio. Cara, cara e cara, cara. Non sai quanto ti stava arrivando, non ne ho fatto. Ah, quasi 9:10 era. Caffa. E ora se 9:10 è quello che gioca. Caldo? Deve ancora salire. Almeno di altri 30 watt deve salire. Che se... Cara gara e chiara gara. E beh, già te. Ehi, come mi ascolti, già te. Bella, chiara e pulita la voce. Oh, non è cupa. Guarda un po', adesso ti faccio sentire, questo è il microfono originale. 1, 2, 3, 4 e 5, come? Chiara. Aspetta, adesso ti faccio sentire l'altro. A vedere. Ehi, brigata, io che devo fare una cosettina, però ce l'ho. Zattere. Guarda, guarda questo com'è, Zattere. È uguale, bella. È uguale, ugual modo. Questo è poco poco meglio, ma poco, ma va bene anche questa, bene, benissimo. Perché questi, ascoltate in cuffia, avete secondo adesso spinge di più. Cava, cava. Eia, ma quale hai messo? Quello che stavo usando io? Eia, io ti ho sentito dalla macchina. Andavano bene tutti e due. Però con questo, boh, c'ha un qualcosa che mi piace di più come modulazione, confronto a quell'altro. Bella, bella, Daniel, bella, bella, bella. Ma stai usando quello là? Eia, si ho cambiato i microfoni. Bella, Daniel, bellissima, una bella radio. Adesso sì che sei tu. Non lo saggio, però quell'altro io mi dai quello che vuoi. Però quell'altro mi sentivo boh, tipo Paperino, la voce molto nasina mi faceva. No, questa è bella. Bellissima. Capito, sono detto, sì, questo mi piace, oh, cioè, piace anche a me sentirmi recentemente, perché anche gli altri mi ascoltino recentemente. Allora, bisogna fare quel lavoretto lì a vedere cosa, se cambiano da uno all'altro, già l'hai capito. Sì, ma quel lavoretto no, è stato fatto lì oggi. Eia, quello è stato fatto, quello è tutto a posto adesso, io non c'entra più nulla, adesso è questione dei microfoni. No, adesso non è questione di microfoni, perché adesso come è stato toccato lì, quello che hai toccato va benissimo, era da lì il difetto secondo me. Adesso andiamo a provare il gemello dall'altro microfono e vedere un po' te, se mi prende da quello oppure la voce mia, e bisogna ascoltarci diverse voci, capito? Io bene o male la tua la conosco com'è con quel microfono, quindi bisogna provare il mio, la tua o quella di Franco e vedere un po' voci che si conoscono e vedere se sono effettivamente uguali anche in questo apparecchio. Guarda, parla che sta entrando adesso Franco, che radio vuol rompere, parla. Guarda Fra, questo è l'altro microfono, com'è? Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova il radio, com'è? Quello nero. Ehi, a questo non è il suo originale, questo è l'altro nero. No, vabbè. Cava, cava. Però l'altro... Boh, non mi piacevo. Bisogna provare il gemello a vedere se fa la stessa modulazione. Con l'antenna. E vabbè, anche l'antenna, però... La voce, boh, mi prende anche dal microfono. Oh, ancora è freddo, Ancora a salire. Mi prendi anche tu? Eia. Ciappa. Però, con questo microfono... Oh, ciao, Fra, mi sono dimenticato. Non ti salutarti, scusa. Con questo microfono che hai messo adesso è migliorato un pochino, Cava, cava. Eia, eia, non lo so, Cianto, io in cuffia con questo mi ascolto benissimo, non c'è neanche un problema. Papà, no, non ci va bene, ah, lascia così, cosa vuoi dire? Ragava e cava, cava. Eia, eia, già te ne. Ma, dove sei andato a far cosa? Pippallo! Sta facendo una cosa? Eia, già siamo qua, già te ne, se vuoi entrare. Ti parlo, drummi due. Oh, iaia. E domani è lunedì, altro giro, altra corsa. Rompimento di scatole. Sei volata la fine settimana, sabato, la domenica. Aiuto, non credo. Per due... una via e mezza riposati da voi, o Giulia, sempre il bravagliente. Giulia. E allora, fai tempo a riposarti e stai già andando a lavorare. Lo so, troppo la vita è quella. E ora ci vuoi fare Antù? Allora, va. E già c'è tempo a riposarsi. Sei a voglia. È troppo. Se non travaglia nessuno ci autodistruggiamo pure. Ia. Tu beh sei su già. Questa è la quarta, tre settimane, o quattro settimane sono già in casa io. Pensa a due, sono già più di mari. Ciao, ma no, beh, non ci sei riuscito a cercare di stare bene. Cosa, tu a cercare di fare? Di prendere un qualcosa per stare bene, cioè a fare qualcosa, va. E Anto, tutto quello che sto prendendo, no, non posso prendere altro, no? Vitamina e tachipirina e più tutto quello che mi sono preso i mesi successivi dietro. Aspetta, sto diventando una pastiglia. Insomma, sono già due giorni che non sto prendendo tachipirina e sembrerebbe che stia reggendo, a parte questa tosse brutta che ho, forte, per carità, mi sta crepando. Piano piano speriamo che se ti passi anche troppo un vea che cagotta. E poi ti prende male, stai in casa così, boh, senza fare niente. Ehi, dai, devo stare anche riparato al caldo, se no non mi passa più il cagotto, per carità. Per la tosse, vabbè, posso prendere anche lo sciroppo, ma sciroppo io non ne prendo. Io prendo solamente pastiglie, non le bustine né niente. Ma solo pastiglie prendi? Guarda, non mi dire di bere né bustine né sciroppi, solamente pastiglie prendo. Può essere grande quanto vuoi, non c'è nessun problema, però tutto è in pastiglia. Grazie, grazie. Se ti danno qualche cosa che bisogna prenderla in bustina, no, non la vuoi assolutamente. No, no, come la bevo, la butto fuori, capito? No, non c'è verso. Dai, Daniele. Dai, caro. Guarissimo. Davvero? Davvero. Ehi, ehi, avvero, avvero, avvero. Ho sbagliato, ok, Natalino. Ehi, Natale, Natale. È il 25 dicembre, viene, il doppio stipendio. La tredicesima. Gava, gava. Sempre bene, mi ascolti, Natali. Ehi, va bene, già va bene. Iaia, oh iaia, stiamo parlando qua con Antonio. Sì, cappa, io sono arrivato adesso. Cala, cala, cala, cala. Cosa stava dicendo, altro penso come mette gaddo? Beh, delle pastiglie. Iaia, purtroppo sono fatto così, Antonio, va. Avevo la febbre, quei mesi scorsi. Prendevo la tachipina 1000 effervescente, però per carità mi uscivano sempre gli occhi. Adesso quella che sto prendendo è sempre 1000, però in pastiglia. Gava gava. Beh, non la potevi prendere dell'altra maniera. Insopporta. Questa è un siluro, la tachipina 1000, ragazzi. Non te ne accorgi neanche. No, no, va poco, no, ma molto sì. La prima volta. Così, Natale, poi le volte successive. Tu le vuoi nel cazzo dei 4 ore, poi devi stare su posta. Ah, sì, che ti piace pure il pulso. E te, Antonio. Ma solo al pensiero mi fa già male. E sei grezzo. Già quando ero piccolo mi dava fastidio quella la 500 o la quant'era lei, che era la più grossa del mignolo. Tu pensa a quella da 1000. Sì, vabbè. Quella sarà più grossa di un tappo da penna. Mamma mia, oh iaia, per carità. No, no, vogliamo pensarci, sennò questo guai. Ma dicono che però è più efficace. Antonio, quelle linee le diamo. Da 2000, Antonio. Chi ci diremmo in dubbio? Antonio. Però vuoi un tubo d'82, Daniele? Un tubo d'82? Cosa me la sorprende? No, no, già preferisco prendermi le mie pastiglie e prendermi una supposta. No, beh, l'hai un della grucca. Cosa me, ma le supposte le prendi per culo per bocca. Per via anale. Dai, da un dame. E te vuoi coppa? E di un. Allora. Stella. Tony Brick. Ecco tra l'altro della testa per vermetta. Antonio, fra. Piano! Passa a due. Già sta salendo. Tra il caffè ci serve. Facciamo di poco di caffè. Sto aspettando che salga, ho visto il caffè, Franco, non è assaggio. Adesso come hai comprato i gatti? Infatti non faccio i caffettieri la notte, ti dobbiamo altre buone, è pure la ritro, e la dove c'è ti devo una il caffè invece di Vieva. E senti ci chiedi di portare aperto. Fa un male l'Italia, fa un bel male. Io ho bisogno di Demi, mi ha crepato una caffettiera al giorno, di quelle grandi, una caffettiera. Ha detto, ma cavolo qua si fa? Si prende al volso, no, no. No. Hai mullato. Mi viene attacchi epilettici, mi veniva, non mollato la niente. Beh, pure ogni tanto così, quando cammino la tua mamma. Oppure vai, mi viene la rubita un caffè, mi dice, mi alza, me lo faccio, ma non è sempre, non è sempre. Mi dice, no, ma non che vado alla Teresa, lo fa, va bene, lo prendo. Dice, no, Però io ti faccio un amico, come? Ti faccio a rubi. Cazzo, non vedere un amico. Senza rubi. Sì. Qua oggi ne avrò preso 4, non di più. Fanno male, Daniele, fanno male. Fanno male. Poi fai ci ti piace, io non è che ti sono obbligati a lasciarlo. Però se ne prendi di meno è buono, meglio per te. Troppi fanno male, cioè vuol dire fanno male. Ah sì, però che mi chiama Rubicino un attimo. Rubi! Ma non vedi me la pigliano il microfono da mano, ma dimmi. Dove abitare? Ma come se andare a girare le balle? Amico, lascialo fare. Ma non devo andare, che non andare a lungo, vedo che è basso. Amico. Vedo che arriva la braghetta. Io che faccio Lugano e mi fa vedere. Rubi, non te la. C'è Natalino, Daniele, sono tutti. Però Rubi, Rubissino, quanto è bello. Saluta. Dove è? Cacavallo, l'acqua c'è la gamba, me l'ha cavata. Rubi. Rubi. Rubi. Ma cos'è? Mi va a essere qui. Io saluto a tutti, Rubi, da. Saluta. Che cosa mi sono un canimaro, vale. Dico. Dopo il mare. Dico, io vado un cane, ma saluta il mare. E non so come va venuto. Ma no, tu no. Un beautiful è quello. Ma ah. Un cane no, Luca che andrò vado. Se ne mani della banca. Ah, viene, viene. Vai, io fammi, davo. Caravagliato con un caffè, ti sì, il rulito. No, lascio qua, come sto prendendo caffè. Parla, dici, dici qualcosa, dai. Aspetta, vediamo un po'. Aspetta, cos'è non riuscivo a dire, Franco? New Dimension, così com'era? Dicevo. Com'è? Nomination, lui dice New Dimension. Natali, senti questa. Franco, come si chiamano quelli che controllano le strade? Quelli che? Come si chiamano? Che cosa? Quelli che controllano le strade. E c'è una macchina con lampeggiante. Ma controllo le strade. Ah, ANAS. Ah, mi ricordo è to you. Da dove sei tu, ANAS? Questo è l'ANAS. Uiaia, che ANAS. Che sei mica la brutta. Che mi fa nulla la televisione. Non c'è bocca a cane, se buone, tagliente. Io non mi so pure. E non la mano, mi ne andiamo a vedere a me. Io contento. E allora? Perfetto. sempre io sono. Non c'è un bocca rugare il Zappu, santo. Davvero? Ma che? Ma fa due il tuo coso, eh? Lo so, capi. No, già usai tu. Allora? Pagava e cava, cava. Abbi fede, figliuolo, abbi fede. Me lo stavo dicendo Gianni. C'era una remoto, addirittura c'era una Guzzi anche se di che anno era, del 38, no, del 32. Perché, così che di moto, vecci, dell'anno 3. Ma Vespa anche del 1900, che sono, 1948. E le prime che da fare un rondo. Fare un rotondo e più praticamente c'erano due celle. Con le molle sotto si valevano. Poi c'era la Traguzzi rossa, che per volare sembrava una pesatrice. Che se. Poi c'era un'altra macchina, non mi ricordo che macchina era. Una Fiat, non me lo ricordo, una Fiat tipo 500, però non era una 500. Poi era la prima 600 ed era del 1928. Questa, proprio... Sei sicuro la 600 in quegli anni lì? Mi pare la 600 e la 500, già non bisogna dire perché è lunga. Questa l'ho fotografato. Ma sai quanto costava, quanto era valutata quella moto del 1900, del 30, del 32? 15.000 euro. E c'hanno un bel di valore. Ce le ha quelle moto e quelle macchine d'epoca, se le tiene un bel 7. Ma non mette le chance così in tutto di avere un bel di denaro, Daniel? Già lo so, fra, già lo so. Quello se trovi l'amatore già te la paga bene. Sì, così com'è, no? Allora, ok, è a prezzo stracciato, ma se in ottime condizioni, di interni, è messa bene, vale un pacco di soldi. Quella 500 lì, Luca, per venderla, lui la deve rifare tutta, riverniciata tutta, invece paraurti, rifare le cromature, mettere le gomme tutte nuove. Allora sì che abbiamo un bel valore. Eh beh, c'è un gioco fra, lo so. Soprattutto dentro, gli interni, deve essere perfetta. Allora sì che vale, se no, manca balla. Magari trovi la 90, dice, hai pulito, 1.000 euro, ma dai. Ma se no, di più non te ne paga. Guarda, quella macchina, andiamo dietro, prima per verniciarla, deve metterla a posto, falla dentro e fuori, avevo chiesto 3.000 e passa euro. Vabbè, però quella macchina lì 3.000 passa euro, no? Quella macchina la metti a posto, ma anche se ne metti 3.500 euro sopra. Poi più la tieni quella macchina, più valore prende, capito? Già lo so, più passano gli anni più valore prende. Lì adesso c'ha 33 anni, 34 anni, una cosa del genere. Figurati. Ma sai cos'è anche il fatto? Che di 500 sono più probabili che li trovi con le macchine. Le 500 bene o male si trovano, qualche pezzo, sportilli, anche gli, ma gli interni diciamo ci possono anche tappezzare, quindi non sarebbe un grosso problema all'interno di quelle macchine lì. Ma tu vai invece a cercare una 600, un'auto bianchi di quelle vecchie. Oh, ce ne sono poche. E vabbè, però, non lo so. Ho visto una bianchina io in circolazione ancora, c'era un tipo di via Baldello, dove abita Gianni? Scappa. E quella lì è già una macchina che viene so pochi in giro, quasi niente. Invece la 500 purtroppo tuttora ce ne sono un bel di modelli ancora in giro, in circolazione. Ce ne vuole una moto, la mia mio padre, il Gilera, il super sport di bici ha carburatore a trombetta e l'ho regalato tutte e due quelle moto, ma stavo mangiando vedi tamburi. Tu pensi al valore che avrebbero avuto adesso quale moto? È un bedelà. Manco, non è la cosa da regalare, no, quella. Oh, come invece un giorno ho fatto la consegna a questo garage e cioè, c'aveva una vecchia Lancia Fulvia, mi sembra che era, comunque una vecchia Lancia, una 500 e adesso mi ricordo un'altra macchina d'epoca. Allora, questa mi suona a tenere solamente la Lancia Fulvia, dice che era molto migliore, era molto più valida della 500. Quello voglio chiedere a quello che gli ha dato con la moto che c'è una corsa. Vai, Vol. Ah, sai che ho io un zio che abita giù alle punti e c'ha il, aspetta che moto è, il Guzzi, la Guzzi, lo tornello. Lo tornello, così si chiama? Sì, della Guzzi. No, non ce l'ho presente adesso. Poi c'è un'altra Guzzi, mi pare che è 90 di cilindrata, figurate un poco, 30 anni va. Quella moto minimo è del 28. Sono molto da tenere quelle, non da andare così. Tanto c'è un piccolo posto, c'è un posto da tieni e basta, perché almeno una. Pagappa, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. E io adesso te la voglio chiedere a mio zio se andrà con la moto qui. O chiedigliela, se ce l'ha. Sì, già ce l'ha, ne ha due, che è 90 di cilindrata. Ed è il Guzzi stornello. Che te ne vai, fratello di Rambosi? Ah? Che di Rambosi? Me la vernicio tutta, me la faccio verniciare, la faccio cromare, tutto quanto, e la uso e la metto come è morto l'epoca. In realtà. No. Beh, le buone che la prendi, quelle 10.000 euro te le danno per quella moto, se passa bene. Hai visto quella che c'era stamattina, ben esce dalla fabbrica. Cazzo che è bella quella lì già. Mi serve quando ce l'aveva, dai 15.000 ai 16.000 euro. Hai visto dove c'è le marce? Tu ci hai fatto il caso, c'è la leva a fianco. Già, c'è la leva a destra. Praticamente hai visto come funziona? Attacca la leva, attacca prima, seconda, hai visto? Tu non hai visto l'acceleratore, c'è l'acceleratore a mano, non c'è l'acceleratore come il nostro, c'è la leva. Ha detto che per cambiare doveva abbassare quello lì, mettere la marcia e riaccelerare. Signor Gazzino. Senta ammortizzatore, intendiamoci. Perché già ammortizzatore non ne aveva, hai visto? No, lì le valvole dov'era? Fuori in testa, già. Cioè, ma le valvole tutte fuori, ci vedevano tutte le valvole, tutti i movimenti del motore. Beh, da lei non doveva essere quella moto, eh. Bella, c'è una bella, quella... Dite quella, la lambretta, già, il 50, lambretta. E gli piace tutte le foto. Quando le sviluppo, già le vede Daniele. Già le faccio. E quelle... quelle belle che ho io, me le ingrandisco una e me la appendo in camera. È una mia che ingrandisce, quella là. Adesso vediamo, prima le sviluppo normali e poi le faccio ingrandire, quelle ce le scegliamo e le ingrandiamo. Se no me, un giorno andiamo e ci facciamo sviluppare quelle che ci interessano. Andiamo dal fotografo lì via... come si chiama? C'è quello che c'ha la Hummit, via Gurizia. Esatto, un ingrandimento mi faccio con la moto. Sono uscito un bel bello comunque già quella foto. Vabbè, è la macchina che vale, è molto buona. Vabbè, anche compreso, una Canon, bella la macchina fotografica. Tutte che le fotografate quella moto d'epoca già. E io. La prima all'ultima. Sarà anche gli schianti che c'erano. Hai visto quel cannocchiale che c'era lì dai russi? Sì, è quello dei carabinieri. C'hanno tutto quello lì, c'è roba di roba antica, poi loro sono antiquati, fanno le cose che noi abbiamo lasciato da 100 anni, loro le fanno ancora, quelli da stilo strani, quelli col filo strano, telefoni, di tutto va. Ma ha visto quel tipo che come lavorava le monete, i disegni che faceva dentro la moneta? Faceva la moneta, la medaglia, per dire 5 lire le ritagliava tutte dentro, no? Faceva solo il 5, le ritagliava all'interno e faceva la medaglia, ma non c'era quanto era livello. E quanto costava? 30 euro, 40 euro? E se le fanno pagare, ma la so. Poi c'era il volo, hai visto, ha detto che ne stavano uscendo gli occhi facendolo ultimamente. Ma hai visto come la lavora praticamente la moneta lui? C'era quel trapani a batteria con quelle punte sottili, sottili come là, come? Gliel'ho visto, sì. Senta, ma non c'è la partenza che ci vuole già fare una cosa del genere, ui. E poi è perfetto lavorando. Ma hai sentito cosa ha detto? Che ci vuole un po' di lavoro a farle e poi ci vuole un po' di vista. Si dice con gli anni si sta perdendo, quindi la sua volta noi stiamo facendo gli occhi facendo. Che è un lavoro fatto da vicino, capito? Adesso con gli anni in effetti perdi la vista da vicino. E già lo credo già. Poi c'erano dischi antichi, insomma, di roba. Addirittura quel canocchiale che ho visto dei russi, l'hai visto? Che ci vedeva, funzionava anche di notte praticamente, vedevi con quel canocchiale lì. A Efra Russi era, 60 euro lo voleva. Certo. Bell'anello, Lì quello che ce lo vede di notte al buio, le persone le vede in rosse, in rosso, capito? Ehi. Però quello lì li usano, per dire, stanno cercando qualche assassino o roba del genere, lì si messi in nascondo e guardano col cannocchiale, quello lì al buio non vede, ma tu vedi. Cosa c'è tanto ogni cannocchiale allucinante? Sì, allora, hai visto quell'icone quanto gli voleva, 350 euro. Ma che cosa? Quelle icone, praticamente quei quadri antichi, si chiamano icone, no? Voleva 350 euro. Non li ho visto già. E sono beccati in Russia. Là chi sono, non russi. Dai, facciamo girare un po' Antonio. Vai Antonio, ho! Antonio è sparito, vai. Antonio Bombolo. Ninna nanna ninna oh. Sto pupo, a chi lo do? Natalino. Anche lui. Tutti da Morfeo. Bebe. Luca, a te. Bebe. Ti dormi di Gisof. Pagava. Aiuto, per carità. Oh, ma cosa ha fatto un bel mio con la moto mia stamattina? Io. E no, ma che? Dal piano c'avevo il piano mi è rimasto, ma come se si l'attacchetto? Sì, ma la mia, io ne avevo, allora, era più sopra della metà. Sono arrivato qua a casa che ero al di sotto della metà. E non è che abbiamo girato tanto fra, No, la mia mi fa 23,5 litri. Consuma già, quando la tiro la mia consuma un casino, Ma, quindi vabbè, insomma, tutte già consumano, va. La verità, la mia non si è manco mossa la tacchetta, il pieno c'era più non rimasto, non si è manco mossa. Oh già, cosa volevo dire? Come stamattina ti faccio il cazzo di un botto, ha avuto una cazzata che l'avevo devuto. Se tagli suonato, tu davanti a me ti ho suonato due volte, tu cazzo ma non si gira. Io ho visto le sigarette volando dal giubbotto proprio. Allucinante che. E già l'ho tirato un po' stamattina, non l'ho fatta girare un po'. Io ogni tanto infatti vuole. Io non l'ho tirata più di tanto, ma solitamente la tiro più quando vado a lavorare. Perché tu non cammini molto. che gliel'hai tirata? Hai fatto un pezzo di 140, anche 150 tu. Ehi, un pezzo, quello di Marico. E che mi sono occupato una donna su 60 io quasi. Io non potevo, poi ti avrei diventato un pletra, di qui dopo cubiste c'è la sotto. Davvero? Perché? Perché mi sono occupato a in cui trova. Ma io, quando ho visto quella moto che hanno stracciato, che aveva messo l'adrenalina. Cazzo, ogni stracciata quella moto, nel ponte nuovo, allucinante. E quello è bello perché quando pieghi tengono bene. Ma se tu guardi appena di bagnato, di ghiagliere, ti fai bello oggi. Quello sì. Sì, ma deve farlo scaldare un belle gomme. Comunque, prima di tirarle così, le fanno ondulare, sia quando scalda. Ma quelle sono molto, sono diverse dalle scooter. Quelle tengono molto di più dello scooter. Ma io, la verità, ho sempre piegato con lo scooter, non mi è mai successo nulla. La volta che sono caduto per colpa di uno stronzo, che ha frenato di colpo davanti a me. Io ho frenato e mi si è puntata la gomma lì davanti. E prova a piegare con la mia. Che pesa la mia parte, no? Ma pesa? Che te? Beh, la facciamo una volta rifornita per Danieta. Convinto che c'era il cavalletto laterale già. Mi sono confermato, tranquillo, appoggiarla e non ce n'era cavalletto. Mi ne è parata in alto, in terra, la giubulata in terra. Non riuscivo mai a capire la mia di gatto bis. E che la fiatta là? No, non ci ho fatto niente. E una volta che a me mi è successo col 150 e mi ha aiutato uno a tirarla su. Ho preso un bel con la moto. Con la moto mia ho preso un bel. Quando devi spostare è un casino con la moto. Allora, certa mattina non metteva in moto, cazzo, mi dice anni luci, papà la pune in moto. Poi ho letto nel libretto di manutenzione che non la devi lasciare sul locale. Quando tu la tieni ferma la moto, non la devi lasciare sul cavalletto laterale, capito? Devi averla, devi parcheggiarla sempre col cavalletto centrale, quando la lasci ferma un po' di tempo. Sì, perché probabilmente il cavalletto laterale c'è quel sistema per non farla mettere in moto, no? Non so se la tua sia così, ma la mia se metti il cavalletto laterale in moto non mette. Si spegne il motore se tu metti il cavalletto laterale automaticamente. E probabilmente c'è qualche sistema che magari rimane in contatto e ti fa scaricare la batteria. Pure io ho pensato a quello. Che se io la metto nel cavalletto centrale la mattina, il primo colpo parte, capito? E gli ho fatto fare tutto tagliando, cartuccia, olio, candela, tutto canto. Non è che c'ha tanti anni la tua, già è nuova. Tanti anni? Non va manco un anno, già no. Pare che c'ha 6 mesi quella moto. No, gli anni più, tu ce l'hai prima della mia, no? Che cosa? La moto. Quanto ci avrà 7 mesi quella moto mia? Io l'ho presa a luglio dell'anno scorso. Luglio? Sì, l'ho presa prima di te. E ma poco tempo. Beh, l'ho presa un mese prima della tua. No, già vanno bene. E già. Per quello che ci avevo a fare io con la moto qua. Infatti viene bei buchi. Camminano di cosa amara queste moto di adesso. Non lo so certo come il Vespone di prima che dicevano che era una moto e camminava, faceva 110 al massimo, ti ribaciava i buchi. E quelle sono moto per la mia, scende a 170 tranquilla. La mia discesa è lo stesso. E il ritiro fa 160 tirandola a morte. E una cosa del genere fa. Malato guscio, malato da dire, poppo. Ma è normale. Noi già noi scaldi nei bocco siamo otto. Scaldano bene, no, la mia metà tacchetta. Praticamente c'è il minimo, il medio e il massimo, a metà sta. Consuma è molto ma la sorte. La tua non lo so quanto è, però la mia già consuma, se la tiro consuma. Allora io con la mia per scendere a lavorare tutta la settimana, prendo niente a casa, scendo e salgo, 500 e salgo 4 volte al giorno, praticamente 10 euro di benzina a settimana. Come dicevo, mi durano 4 giorni. 4 giorni però faccio 80 km al giorno. Vabbè, ma in città consuma di più la moto, capito? Perché stai ferma, parti, ferma, parti. Ma la tua non lo segna il consumo, la mia segna il consumo al litro, capito? Ti dà quanto è consumato? No, la mia non lo segna oggi. Ma te lo dà o al litro, oppure per dire ti mette ogni 4 litri consuma tanto e tu ti fai il conto. Ti sarai con la stamattina dopo T-Max. Quella è la bella davvero. Quella è più bella del modello vecchio, hai visto quanto è bella? E anche nera, pure bella. Veramente carina come moto. Una bella moto, bella veramente. 10.000 euro costa quella moto. E adesso se non mi metà di buco. Poi io quando l'avevo chiesto, però c'è da chiedere, costava 9.800 euro. Adesso non lo so cosa costa, Adesso il vecchio T-Max lo paghi poco, io penso che un 6.000 euro lo trovi, anche di meno, 4.000 euro lo trovi. Senta, ma i vecchi camminano bene, poi c'è un rombo, boom! Cilindrica! Ma mi stava stai chiamando? Già. Mi stava stai chiamando? Più di una volta ti abbiamo chiamato anche tu. Stavo facendo cosa, scusate. E non c'è problema, pensavo ti fosse addormentato. È negativo. Capito, già, quella è 250 cilindro, bicilindrica, per quello che cammino un bel. Tutto lì. È un bel motore, diciamo, quella motore. Un bel motore. Vai, Daniele. Non è 500. È 500 è quello lì. Ho detto 250. Ecco, 250 cilindro ci ho detto, e bicilindrica, 2 cilindri a 250 sono 500. Ah, sì, 500, là, bicilindrica, le camminano, poi c'hanno tutto da corsa, c'hanno il telaio da corsa, c'hanno ammortizzatori da corsa, ruote da corsa, per quello che tengono un bel. Ma non sei nato consumo a Rute Max, tanto è una macchina. Già lo so. Ecco, io se l'ha comprato, mi ha detto che lei ammazzenda a consumo. E invece uno che conosco se l'ha venuto perché consumava troppo, dice mi guadagni a biglia la macchina. E il carburatore consumava ancora di più di chissi. Vabbè, questo qui cos'è? Iniezione? Sì, già. Questa è la modifica che abbiamo fatto sulla marmitta, sulla parte destra, quando l'hanno sollevata. Almeno... un 10-15 centimetri più alta rispetto al modello vecchio. Quella è bella metterli la marmitta lì vicino, quella ci sta bene. È bella già la sua la marmitta, hai visto che bella la marmitta che c'ha? Meglio. Sono marmitte che mettono alla casa, ma sono marmitte buone. Se no non ti farebbero raggiungere quella velocità. Tu perché cosa stai cambiando la marmitta solo per l'estetica? Io la volevo cambiare per quello. Ma anche il rombo, c'è cambiato il rombo. È più rumorosa. Sono indeciso. 450 euro costa. È più bionda. 450. Però se poi ci vedi il collettore modificato, tutto l'altro costa ancora di più, arrivi quasi a 600-700 euro. Poi vai a fare la revisione, devi cambiare di nuovo tutto perché se no te la passa. E già rimane così. Infatti, sì che fosse rotta, quando me la sto cambiando magari la metto quella, ma non è rotta, è di una futti. Questa è la marmitta che monta il coso, lo scarabeo, il 500, che bella, vede. Non ci ho fatto caso, la guarderò, ne ho visto molti scarabeo 500, ma non ci ho mai fatto caso. Brava. Ma che l'ha detto che la revisione te la acciappano? Non te la passano. Se è modificata, è modificata, non te la passa la revisione. Ciappa. Ehi, un bel di volte sono passato di moto, io, altro che... Vabbè, ma anche non la portiamo più in autorizzata, e conosci, allora è un altro discorso, capito? No, anche da allora, tutti i figli. Ehi, se c'è conoscenza già passa. Comunque, allora, è passata la mia 500 al motore del 126, senza cinture. Mi hai fatto baciare la moto, non mi devo pensare a io, che pare la moto è gravincella. Vabbè. Principale mio, c'è una moto, che sempre un cioppa, di quella faccia l'alta, ottavo e piccata, ma mi interrompo, eppure è passata lo stesso, già passata perché conosceva chiaramente. Così, dipende anche come li trovi, dipende, ma adesso comunque ho sentito che un po' più severa la cosa, Mi danno le conoscenze, io tu, poi va lì se ti pare di Biazzi, come tutte le cose, ci vogliono sempre cascare nel culo, ma te sa cosa. Papà, è quello lì è vero. Ma tu puoi essere bravo quanto vuoi, però se c'è cascare nel culo, passi da tutte le parti, capito come funziona? È vero, è vero. Guarda il T-Max di Luca Battistelli, fra. L'ho visto, ma ero vecchio c'ha lui. Tutto modificato, centralina, marmitta, collettore. Ah, visto il rombo che ha. E la marmitta è l'originale, l'ha svuotata lui. Già lo so, me l'ha detto. Però c'ha un bel rombo, che se la sta vendendo lui. Oh, vendendo se la stanno. Se la sta vendendo, 4.500 euro lo vuole. Allora, però è nuova quella moto, almeno l'ultima volta che l'ho vista era nuova. Non lo voglio dire nuova, però 4.500 euro mi pare un po' eccessivo. Non lo so quanto sia valutata, poi dice che cammina un bel. Ma va pure 3 anni quasi. Va. Quanti anni c'è perché quel modello di T-Max? Poi io non lo so, io penso ci sia un 4 anni ho già. Sì, penso proprio di sì. Allora adesso il T-Max è il vecchio modello, costa lo stesso, costa 8.700 euro, ma per spendere 8.700 euro dal modello vecchio preferisco spenderne 10.000 sul modello nuovo. E ancora non ho visto il modello nuovo del T-Max, cos'è più grande del vecchio? Beh, Darito, dicalo già quanto è bello. Bellissimo, l'abbiamo visto nero, guarda, troppo bello. Ma come resta? Quel modello vecchio oppure l'hanno cambiato? No, l'ho cambiato. Però non l'ho ancora visto già. Allora, il muso davanti è uguale al modello vecchio. Praticamente hanno cambiato tutta la parte posteriore, il sistema di marmitta, le pedane, tutta quella strumentazione, il contachilometro, tutta quella roba lì, tutta cambiata. Perché molte volte cambiano i modelli, però non sempre li fanno belli. No, questa è fatta bene, bella rifinita. Allora, via. No, perché molte volte cambiano i modelli, però li aggiornano, sì, li fanno tutto il restyling, però non hanno il successo come il modello precedente. Vabbè. Quindi anche la gomma li hanno modificato, i cerchi. Le ruote sono più grandi rispetto al modello vecchio, capito? No, non ce l'ho presente, fra. Non l'ho ancora vista. Bisogna che prenda una rivista di volto e me la guardi. A me piace troppo, ero sempre fissato col T-Max io. No, il modello vecchio già è bello. Quello piace anche a me, per ora. A me è piaciuto il modello nuovo, questo è il modello vecchio. A me piacciono più le moto a marcia, che scooteroni. Sono una bella Lornet. Lornet 500. Il 900. Ma schicchia. Quella già è bella. Bella veramente, fatta bene, non è moto, una bella moto. Però non si crede che questo Lornet 900 viene sui quasi 11.000 euro. Allora, costano tutte un bel queste moto adesso. Da pagava. Ma è Antonio. Esatto. Ma un attimino, fra, che c'è un problema. Ma problema tecnico di trasmissione. No, c'è un problema mio. Aspetta, un attimino che riprendo subito. Vai, già, ci sei. Gianni. Beh, mi fallo. Se volete, Gianni. Se volete, sono al telefono, un secondo. Ciao, Pierpa. Ciao, Franco, ciao a tutti. Nascosto, vedi, no? No, stavo facendo una cosa al computer che mi sono arrivati degli aggiornamenti. Pagava. Pierpa dice che da mercoledì cambia il tempo. Tabù. Ha dato acqua, da mercoledì tempo brutto fino a venerdì. E cosa dobbiamo fare? Pazienza. Ci prendiamo anche questa. È la rotta dura che... E a cano che durava i giovedì lì? Oggi ha fatto una bellissima giornata, niente da dire, era proprio prima a venire. Oggi era una bella giornata, con la moto stava benissimo, che... Cavalava, fai un giro in moto, e hai... Oggi era bellissimo davvero. Va bene a freddo, però. C'era freddo, ma la sorte. Al telefono Efra. Brava, brava. Con quale microfono sei pilotando? Non quello nero adesso, Dani. Ehi, sempre quello. Quello nero sto usando, Fra. Ma va l'altro un attimo. Aspetta, adesso attacco l'altro. Gianni. Telefono è Pierpa. Ma cosa il telefono? L'ho preso con me da poco fa. Guarda questo, Fra, com'è? Oh, non mi piace, Daniel, non mi piace, è meglio l'altro. Cavalava. Ecco, lì già abbiamo provato in cuffia, non vi fa la differenza che c'è. Però c'è qualcosa che non... non lo so. Secondo me tu c'è il problema in antenna, Daniel. No, non lo so, perché con l'altro... L'altro microfono, lo più 5, è tornato, sto bene. Io con l'apparecchio lo voglio provare qua a casa mia, però non esce. Cavalava. Oh, ancora è freddo questa cosa, mi. È salita un po' più di prima, però ce n'è ancora. Ma non risolvi niente, no? Perché più batti le dai e meno radio, e te ne ruba tutta la radio, ho capito com'è il problema. Cava, aspetta, vale. Piccola emulazione. Oh, una bocca ancora, Fra. Beh. C'è ancora poco il piccolo di modulazione. Poco, deve essere gli altri 20. Tutta maletta, non ce n'è altro da aumentare. Lì il trivel è tutta a palla. Beh, eppure... Vabbè, adesso non è tutto al massimo, è Nick Gain. No. Via. È quasi sotto la C. Perché l'hai messo così? Aspetta, lo rimetto a palla, guarda, non c'è a palla. Prova. Guarda un po', ha fatto qualche cosa. Pammelo un attesce. Che fa, confermi. Cosa? Guarda quella radio di Daniele, cosa ti sembra? Poi. Guarda cosa, Pierpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brutta, brutta. Abbassalo, Daniele, mettilo sotto la C. Guarda, adesso la prima. E lascialo così. Fra, perché in cuffia io ho l'altro microfono, mi sento bene. Ma tu non ti senti bene nella cuffia tua, tu devi provare un'altra parete. orecchio come ti senti? In cuffia, se io parlo chiaro che mi sento bene in cuffia. Senti in cuffia, uno senti gli altri come ti ascoltano, capito? Guarda, guarda, aspetta, ti metto l'altro microfono. Ecco, quel microfono si scende, va. Quello originale. Ma cavano io sul microfono, che con un microfono originale c'è una porcheria con l'apparecchio, poi non riesco, cioè non riesco a capire perché devo uscire così male con l'apparecchio. È incredibile, secondo me c'è il problema dell'antenna, tu. Ho problema dell'antenna, ho problema di qualche massa lì, in quel capo con tutto quel gran casino che c'hai. Ho problema del gancio a vite. Pierpa, non mi gioco, buh. Perché c'è il gancio a vite indietro. Ma io gli apparecchi non li tocco, Pierpa, quando vanno bene la cuscia, è inutile che stai te, tocca, tocca, vai, chitto, vai, chitto, buh. Guarda Fra, questo è l'altro microfono. È buono, questo è meglio dell'altro. Allora, bisogna provare il gemello, l'altro gemello Fra, abbiamo provato stasera. Secondo me tu ti sto dicendo che è qualcosa che non va lì. Non so che cosa, però c'è qualche problema, o in antenna, o un virus, che cosa. Ma la c'è che sono attaccato. No, è diretta. Diretta, boh. Ma sono la massa di quel PL. È impossibile, boh, è impossibile. Lo so, Fra, non lo saccio, boh. Sono antenna. Questo è il nido. Una prova, prova a attaccare il tornado, è stata 4S, che voglio vedere la differenza del radio da uno all'altro. Aspetta che ce l'attacco. Cazzo, beh, non apparecchio normale, un ala 48 nel manco buro. Ma che è più forte è questa la radio, Pierpa? Cosa fa? Questo, ma ne metti che è più forte la mia la radio della sua. Con la modulazione sì, ma Fra, tu no, non so se ci sei stato dalla parte sua, io quando arrivi qui da Battezoia, che si commette la radio a fa fischi, controfischi, ve ne poco di segnali, sporchi, che non se ne compra di niente, senz'altro c'è anche un bel di spurie lì. Non lo so, ma è brutto come posto. Guarda questo, Fra. Hai visto la radio, è meglio di Ghita. Quello di con tutti. Questa c'è meglio di quello lì. Cazzo, ti mettiamo questo microfono. Cos'è? Con l'MB più 4, più 5. Che facciamo gli attacchi? Cosa vuoi ti dica, Dani? Non so cosa dirti. Che si può fare, non è che non si può fare, va bene lo stesso. Chiaramente non c'hai l'opidano, però non ti l'ha tutti nulla. Allora vediamo cosa mi risolvo la mia metà storia. Cazzo, però il microfono andava. La risolviamo subito la storia, due appunti di no, ma faccio il colpo di tale e poi te la risolvo subito. Non ti mettere problemi. Già non ho problemi, già lo sai. E allora potete dire. Cava cava, perché pure stazionale non ne ho, Fra, uno e uno sono. È impossibile, è impossibile. Io lo voglio provare qua con la cosa, quella apparecchio, vedi come esce. E lui dice bene se è problema tuo o se è problema l'apparecchio. E io faccio anche questa prova e vediamo un po'. Però quello che mi dà da pensare, con questo apparecchio esce bene. Ma da franco questo? Questo se esce bene con quello, lo posso uscire bene anche con l'altro. Ma sicuramente è questione di microfoni, Fra, un po' a sé diversamente. Che cazzo, ma comunque tu che ci possa dire a provando, vabbè. Eppure, già lo sai, l'abbiamo sentita in macchina. Sia con quell'altro nero e con 60 non c'è molte grosse differenze. Allora vanno bene tutti e due. Scusa questi ricchi, però. Poi c'è cioè, chi non vuole cosa, non vuole più, non si comprende mai nulla. Sembra così, ma la radio è una cosa seria, più del segnale. Capito? Rimani via Paolo. La radio conta un bel fra. Altro che avere segnaloni e poi vado avere una radio che fa schifo. Come sto dicendo, infatti. E meglio avere una bella radio che avere un segnale più basso, capito? E non sai che c'è un segnale 59 più 30 e c'è una radio che fa schifo. Il discorso è quello. Però il tornado col più 5 non c'è niente da dirgli, vanno bene, si avviano benissimo. E già lo so già. Tutti a nanna, tutti a nanna. A vedere le nannette le. Questo è un bidduce. Sono rientrato io, non parlo perché ho preso con me da poco fa. Cosa gli hai fatto Pierpa? Perché le lettere e quelle moto non mi piacciono a me. Ma non fa epoca? No, le moto, gli scooteroni. Non penso, ho preso per quello. Sì, vabbè, non l'ha detto proprio così, no, che era gente diversamente. Ma non credo. Gli ho detto in pratica che quelle sono le moto che guidano quelle che non avevano la patente per prima. Ecco. E via qua. E si è offeso. Hai detto che era la moto batti cappa? Eia. E c'è la bieccia. Carità, Antonio! E sicuramente si è dormito. Sì. Vabbè, va, io chiudo là, che adesso faccio questa chiusura del computer, che no, ero qui, che si butta troppo a tardo, là. Faccio, chiudo tutti i programmi adesso e chiudo qua, se no cioè, non riesco a fare niente, là. Ciao, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Pierpa, buonanotte, ciao ciao. Guarda, io rimango un altro pochino. Ehi, ciao Pierpa, ci ascoltiamo domani. Mi compare giù un microfono a forma di bocca. A chi la bocca va giù? No. E sai quando succede quello? Quando c'è umidità. Sai cosa è strano però? C'è il vulcano, ecco, mi ha bisogno di un microfono da mano. Soprattutto al baracchino pure un cane mio. È vero. No, ma che? Cosa fa vita? Un cagnaccio. Ubbidiente, ce l'ha qua, non me l'ha dato io dal divano, non ce l'ha qua. È bravo, è poverino. Ma ti hanno detto che erano di quei piccolini, no? Ma io che c'ha? Io dopo che faccio? Ma paglia sempre. Ma che? Poi che ha parlato che mi ha tu. C'è un paraggio che così pure le gane più maledetto. Una volta c'è tirato un cane, tutti i denti c'era spazio, c'era spaccato da quanti. Perché c'aveva un collare con i chiudi questo cane, lui come l'ha aggrappato al collo. Ha fatto la bocca tutta in sangue. Maru ma se si comporta come uccisivo magna le però la figane. E non ti credi no? Se guardi i bugini cane maturi. Si usa la gola, guarda, una cosa incredibile. Anche i gatti si tira questo cane. Ma un giorno ce l'ha vista brutta. Che bello. Ci sarà sempre il cane che se la vede brutta, cioè, perché purtroppo trova il suo. Ma se un giorno l'ho decapitato. Sei decapitato. Allora, sono entrato a lavorare, no? E mia moglie me l'ha scappato giù per fare il bisogno. Io stavo chiudendo la macchina e lui era libero senza guinzaglio. C'era un gatto sotto la macchina. Stavo abbagliando, alla fine questo gatto è uscito da sotto la macchina, ha fatto la gobba e se gli è tirato a lui e se gli ha messo sopra la spalla praticamente. Cazzo, lo puoi vedere un piano di tutti i clienti. È perché il gatto è micidiale, c'ha le unghie, lo fa da di guglio, mi se lo prende bene. Ma di guglio, la continuiamo su. Già io stavo scegliendo e fatti male, anche perché c'ha quei denti appuntiti. Gatto, il gatto è maledetto, se si incavola, o io il gatto. La verità, a me piacciono più i gatti che i cani. Certo, sono educati bene i gatti, ubbidiscono quanto il cane. Certo, ma tutti gli animali, dipende sempre come li tratti e tutto. Gatta doveva piangendo, qua il gatto sopra, e già si sacca domani la iata quando è avvelenata. Ma la giusti. Ma il comio si è già fatto una volta. Cosa ha fatto? Ma di trova ti posso vedere un'acqua, ti posso ridire, e te da quel qua. Ha chiuso l'acqua della lavatrice. E ha messo, prima l'ha messa a lavare, no, a girare il cesso da una parte all'altra. E poi l'ha mandata ai centri fuori col gatto dentro. Tu devi vedere tagliata quando ne si dà la roba. Poverino. E una volta l'ha fatto pure una persona, un coso del genere, ha pigliato e l'ha fatto pure la fotografia. Come è uscita sconvolta? Un danno in casa Giulia. Passava tutto. E poi c'è ciò, la gatta di mia sorella, che ha Fernanda rimuffile. Ma tu devi vedere quanto è educata questa gatta. Non tocca niente, addirittura si corica anche in un lato per non toccare gli oggetti. Nulla, niente, educatissimo. Vabbè, se te l'affeziona, tieni a casa. Vabbè, dipende sempre. Chiaramente se trovi quei gatti randagi, quelli che rimangono fuori, quelli sono cattivi, capito? C'è una qua, un bel grande, ma è grande questo gatto, non so che razza sia, ma è grande, ci mangia tutte le colombe questo gatto qua, la imbiglia, la ammazza e la molla in terra. Cacciatore, perché il gatto fa anche così? È molto cacciatore il gatto, mi sembra che si prende con l'abitudine. Ma cazzo, ma come fa a prendere i piccioni, gatto, è una cosa incredibile. Come fa? Ma guarda che fa di... Ci li punta, prende, poi piano piano, a veloce, e li prende. L'ho visto la tecnica che usano, ma c'è micidiale. E poi salgono da tutte le parti. Beh, se ci ha dato tutti lo buttano dalla finestra, non muore. Cazzo, già lo credo. Le gambe, hai visto quanti guardi hanno parlato? Non sa bene anche cosa fate nulla. Che già l'ho visto, se ti faremo noi invece, se toccano in gissà, se ci salviamo anche. Il gatto ha 7 vite. Quindi io sono allergico al gatto, io se ci sono gatti magari vado a casa che c'è il gatto, sono sempre grattenti. C'è una malattia che non mi ricordo come si chiama. Mi fa grattare e poi a starnutire. È allergia. Ah, è allergico al gatto. Ogni volta che io vedo gatti, mi va giù della faccia. È un'allergia. Invece il cane no. No, il cane no, il cane non mi va tenuto, invece il gatto sì. Allergia che c'è, è una malattia specifica, adesso non mi ricordo come si chiama. E ci sono anche i cani che sono allergici al gatto, la stessa cosa. Gatto, è una malattia. Ma tu devi vedere anche questo gatto di mia sorella. Per esempio, lei molte volte entra in bagno, è intelligentissima, cioè proprio, le manca solo la parola. Entra in bagno, l'aspetta fuori dalla porta, l'aspetta lì finché non esce, e poi fa miau, miau. Cioè, è molto intelligente. Boh, non ho mai visto io un gatto così, una gatta così. Insomma, gli animali sono tutti intelligenti, tutti, tutto tutto, il cane, il cavallo lo stesso. Sì, sono degli animali che sono intelligentissimi. Sono intelligente quanto il cane, uguale identico. Sì, sì, è vero, è vero. Solo che cambia il verso che fanno, basta. Noi parliamo, loro fanno un'altra cosa. Cerca di parlare, ma non ci riesce, capito? Beh, fate solo bau bau, bau. Oh, invece ci sono questi, tipo l'uccello, il bel rendiano. Quello parla tranquillamente, capito? Quello ripete, se tu dici per morire è tronto, lui dice che sei tronto. Sì, sì, è vero. Vedi, sta attento pure come ti fa vedere, perché magari se viene gente in casa ti fa fare anche brutte figure. Ma allora ce n'è da una, ti dici, e poi dove c'è, va tronto, tronto, tronto, tronto. Male soffre. Addirittura, cioè, io so che, per esempio, dici un qualcosa in casa, magari vai lì in due e te la ripeto. Ti fa rimanere male. C'era un pappagallo, c'era una segnale sotto il carro, e quei pappagalli grandi grandi che parlavano. E sono troppo belli, sono, a me piacciono. Costa un po' con uno di qui, lì già. Che tu borsa? Boh, io penso più di 700 euro. Chiaro, costa un bello stesso. Ma vediamo cosa è lì. Vedi quello addestrato che parla. Quello lì costerà intorno ai 1000 euro. Ma lì a cosa? A persino una volta sono andato a fare un lavoro io. E questo c'ha uno, aspetta, brava, uno va. No, con macchia, un corvo c'ha. Ma sei molto intelligente. Sono intelligenti gli animali, ma che ti posso dire, una cocurità che ho io, cioè un animaletto così piccolo che, però secondo me è intelligente, perché per esempio quando accendiamo la televisione lui fa cip cip cip cip cip cip, ti dice zitto, e lui sta zitto, ti guarda e non parla, cioè non ci guarda più, e sono molto molto intelligente. Beh, adesso tu prendi il cane mio non è andato a scuola, ma è intelligentissimo, gli manca la parola, gli manca intelligente. Papà, chi è? E chi è? Beh signore, io vi saluto mettendo a nanna, ci sentiamo tra quanto, a domani. E ma che ora giù? Mezzanotte meno 5, fra. Fammi andare a cuccarmi, dai. Ciao, Daniel, buonanotte, va buono tu, dai, ci sentiamo domani, anche io me ne vado a cuccare. Che mi si sono arrendini serrandi. Ciao, ciao, ciao Daniel, buonanotte. C'è anche a te, fra. Ma tu quando moduli, una cosa veloce, tu quando moduli, però sei seduto dalla sedia o coricato? Ma io? Sì. Ma io sono coricato nel divano. faccio una strappa, ti avvicini il baracchino? Certo che sì. Ti faccio una strappa? Io me lo metto vicino al letto. Vabbè dai, buonanotte. Ciao ciao. Dimmi, come ho mollato poco fa, c'era subito la portante, ma non è un problema. Ciao ciao fra, ci sentiamo domani, se coincide. Ciao a tutti, buonanotte anche a quelli che sono all'ascolto, per me è QRT, ciao. Ciao a tutti, ce la portiamo domani, ciao ciao, buonanotte. Ciao.